Forza Azzurri e grazie a tutti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Grande palla per Radu, la mette in mezzo, Klose! 3-1! Io credo che se non ci fosse stata l'imprecisione, l'errore collettivo, perché non ne avevo il singolo, ma ne avevo il collettivo sul 2-1, credo che la partita della Lazio sarebbe stata una partita di altissimo livello. Sono molto soddisfatto e molto contento soprattutto per i miei giocatori, perché se lo meritano questo passaggio del turno, perché credo che abbiamo dimostrato in entrambe le gare di essere superiori a un avversario che comunque era un avversario di valore. Pallone che attraversa tutta l'area di rigore, lo raccoglie Pina dall'altra parte, il cross di Pina, non è un cross, è un gol incredibile del Villarreal che pareggia, è 1-1 dopo 14 della ripresa. Non è un momento episodicamente fortunatissimo per noi, noi lavoreremo su quello che possiamo, dove possiamo migliorare, lo faremo sicuramente, sperando che... Non vogliamo nemmeno la fortuna, ma che ci abbandoni la sfortuna. Sono momenti e penso nell'arco di una stagione ci stanno. Ci dispiace tantissimo uscire da una competizione europea. Prendiamo il buono, visto che ormai è successo, ci possiamo dedicare di settimana in settimana a riallenarsi in maniera globale e preparare le partite con più tempo a disposizione. Questo ci tornerà sicuramente utile, anche se saremo andati avanti volentieri. Eriksen va via, Chadli con la mela, il destro da Dalusano, Alli chiuso, poi ancora il Coco Lamela, ed è 2-0 per il Tottenham. Soddisfatto con i ragazzi che hanno cercato e hanno provato tutto contro una squadra importante, una squadra che secondo me, come ho detto anche prima ieri, la squadra che valuta in questo momento essere nelle 5 d'Europa, di calcio, di intensità, di qualità, tecniche, tattiche, fisiche e mentali. Oi oi oi, che botta! Perché? Sono tutti contenti. Chi è contento? Ma insomma, uno ha detto che la Coppa era uno sfizio, l'altro che ha perso contro una delle 5 squadre più forti d'Europa, l'altro è passato, quindi legittimamente contento. Quindi di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare di annunci funebri un po' macabri, ragazzi, su con la vita! Dopo una breve e dolorosa malattia, ieri è venuto a mancare l'affetto dei suoi cari, il signor calcio italiano. E dando tristi annunci, tifosi e gli appassionati tutti, per chi vorrà partecipare, le esequie si terranno in Francia a giugno. Mamma mia, che roba cupa! In Francia a giugno, e poi ne parliamo perché è un altro bel temone, magari con un allenatore che alla fine dell'europeo fa le valigie, quando finiranno per l'Italia, fa le valigie e va subito a Londra, sponda Chelsea, perché Antonio Conte è vicinissimo proprio al Chelsea, lo leggiamo da tutte le parti e poi ne parliamo. Dicevamo, 2 su 3 in Europa League fuori. Ranking che piange di brutto, Roma virtualmente fuori per la Juventus, una montagna che sembra il Nanga scalato oggi, avete sentito in molti GR, scalato oggi in inverno per la prima volta nella storia da Simone Moro, 8126 metri. L'unica soddisfazione la Lazio, appunto, che tra l'altro è stata fortunata ora nel sorteggio, ha preso una delle avversarie più morbide, lo Sparta Praga, andata in trasferta, ritorno all'Olimpico, mentre ci sono altre partite come Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Tottenham, Villarreal, Bayern Leverkusen, derby spagnolo, Atletico Bilbao, Siviglia, eccetera, eccetera. Allora, andiamo con ordine. Il signor Ranking UEFA piange, Giovanni Capuano. Sì, piange, anche se poi paradossalmente proprio gli abbinamenti che hai raccontato tu potrebbero darci una mano, perché un inglese tra Liverpool e Manchester uscirà, perché il Tottenham non avrà vita facile con il Borussia Dortmund. Però diciamo la verità, il sogno di arrivare al terzo posto in questa stagione è definitivamente tramontato. Ieri abbiamo perso un quarto di punto, ma il problema è che da qui a fine maggio, restando con soltanto una squadra in Europa League, e poi vedremo se ci sarà anche la Juve o meno, noi siamo destinati a perdere. E anzi, il tema è che stiamo perdendo anche quel vantaggio virtuale in proiezione per la prossima stagione, quello nato dagli scarti che ci saranno in estate del quintultimo anno. Abbiamo conservato intorno a un quarto di punto di vantaggio e difficilmente a fine anno saremo ancora davanti. L'anno scorso gli italiani hanno vissuto comunque un'eccellente stagione, credo che le coppe siano sempre abbastanza episodiche, non siano un termometro molto relativo dello stato di salute di un movimento, perché ad esempio l'Inghilterra, che sta benissimo economicamente, ora va avanti, però sta facendo una fatica infernale. Però quello di cui volevo parlare è il Napoli, subito, perché c'è De Laurentiis che stamattina, entrando all'assemblea di Lega, ha detto un paio di cosette non male. Vi faccio sentire quella su Higuain. Non si può sempre immaginare che una squadra sia filo dipendente da un solo player. Io ho sempre ascoltato di questa mancanza di Higuain, ma cosa si può pretendere da Higuain? Con tutti i gol che ha fatto nella prima parte, ci può anche stare che se uno ha un chilo e mezzo di più addosso funziona come un mattone. Bisogna che Higuain ritrovi prima di tutto la sua splendente forma fisica che aveva un mese fa. Poi vedrete che i risultati ritorneranno. Quindi sei un po' intracagnottito. Sai cos'è la cosa bella di De Laurentiis? Che parla delle questioni del Napoli come potrebbe fare il mio amico napoletano al telefono. Amico Antonello di Napoli, che saluto. La delusione. Sì. Cioè, se non c'è un backup di Higuain, la colpa non è mia o tua. No, ma c'è è un ragionamento che forse De Laurentiis avrebbe dovuto fare a gennaio. Ma lo stesso vale per Hamsik, che non ne ha più. Non ne ha più. Jorginho fa fatica. Alan ieri ha riposato. È riserva. Io davvero, cioè, sono tutti belli i discorsi che fa sulla carta De Laurentiis, però poi manca il lato pratico. De Laurentiis ha mille meriti e io lo dico, i napoletani, l'ho detto mille volte provocatoriamente, dovrebbero fargli una statua per aver tenuto Higuain, Calleon, Mertens e tutti gli altri quest'estate, quando la piazza di Napoli aveva mollato completamente la squadra, la società De Laurentiis, e contestava. Però, amico mio, lo sapevi di aver davanti una seconda parte di stagione complicata e con tanti impegni? Secondo me Sarri è stato messo nelle condizioni di fare l'errore, poi di esagerare con il turnover. Sì, certo, però anche qui c'è una piccola questione politica che si legge sempre nelle parole di De Laurentiis. Tutti i nostri 24 giocatori sono validi. Il rinnovo di Sarri ha un contratto con 4 opzioni, sta unilateralmente a me entro un determinato mese dell'anno solare rinnovare per cifre prestabilite. Dunque, Sarri sta al suo posto, decidiamo se rinnovare. Le cifre sono stabilite e ha 24 giocatori, quindi non mi rompono le palle sul mercato. 800240024, numero verde, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Io non penso che sia importante a 7 mesi, 8 mesi dall'europeo dire se uno resta o meno. Abbiamo il passato recente che insegna, no? Cesare Prandelli, che ha fatto un ottimo lavoro secondo me con l'Italia, aveva rinnovato un mese prima dei mondiali, poi è successo quello che è successo ed è saltato tutto. Quindi secondo me sono tutte delle ipotesi. Io so che si guarderanno molti risultati. C'è voluto un periodo, ecco, di ambientamento, un periodo anche per studiare, per calarmi bene nella situazione, e oggi posso dire di essere contento, ecco, della scelta che ho fatto, perché è veramente una bellissima esperienza e oggi posso dire che lo rifarei, ecco. Parole di repertorio queste, ottobre-novembre dell'anno scorso, di Antonio Conte. Alessandro Alciato, buongiorno. Buongiorno a voi, parole molto sentite, parole sincere, ma assolutamente parole di repertorio a questo punto. Assolutamente fuori tempo massimo. Fuori tempo massimo. Alessandro Alciato, che come avrete visto tutti al sorteggio, all'euro sorteggio di Europa League, lì solo per la Lazio, qui è andata peraltro bene, Ale. Mentre poi ci sono delle partitissime, tra Liverpool United e Borussia Dortmund, Tottenham, scegli tu. Sì, meglio Lazio-Sparta-Praga per la Lazio, insomma c'erano delle corazzate pazzesche, è andata sicuramente peggio al Manchester United e al Liverpool che si scontreranno fra di loro. Cioè, sì. Senti, invece da quelle parti, cioè dalle parti inglesi, l'anno prossimo sbarcherà Antonio Conte. Ormai dubbi non ne abbiamo più, no? O vuoi aspettare ancora un po'? No, ma io non ne avevo già da qualche mese, se devo dire la verità, ma non mi credevano in molti, ma in realtà è da qualche mese che mi sembrava che la strada di Antonio Conte stesse prendendo la direzione di Londra, la direzione di Stamford Bridge, la direzione di Roman Abramovic e la direzione del Chelsea, perché fra le righe delle sue dichiarazioni si capiva che avrebbe lasciato la nazionale alla fine dell'europeo e non prima. C'era qualcuno che pensava si potesse dimettere prima, no? Su quello era stato molto chiaro Antonio Conte, aveva preso l'impegno con la federazione, l'avrebbe portato a termine, anche se poi, vi ricordate, prima di quella famosa trasferta a Sofia per il caso Marchisio, l'idea di dimettersi gli era probabilmente venuta, e lì Carlo Tavecchio era stato bravo a fargliela passare ancora prima che Conte gli dicesse qualcosa, però in cuor suo sapeva anche che avrebbe perso il commissario tecnico alla fine degli europei, perché gli manca la quotidianità, gli manca la dinamica di un club, gli manca vedere la squadra tutti i giorni. E nelle dichiarazioni che avete riproposto poco fa, a un certo punto Antonio Conte dice: ci ho messo qualche tempo ad abituarmi, adesso mi piace. Ecco, in quel qualche tempo che ci ha messo ad abituarsi, Antonio Conte si è arrabbiato tantissime volte, perché lui avrebbe voluto portare il metodo di lavoro di un club all'interno della federazione, all'interno della nazionale, e non ce l'ha fatta. Ma si sapeva già da prima, è un ruolo che in realtà non ha mai gradito, e qualche volta insomma si è fatto un po' desiderare, cioè ha manifestato tutto il suo disagio nell'allenare la nazionale. Dunque, l'incazzatura a Genova, il giorno della partita con l'Albania, io credo sia leggendario e dica tutto anche della fatica che ha fatto Conte in questi mesi. Dunque facciamo i conti. Conte va al Chelsea, 5 milioni netti l'anno, oltre 5 milioni netti l'anno più bonus, sono tanti soldi. L'Italia per la seconda volta consecutiva, Alessandro Alciato lo sa benissimo perché continuamente il compagno delle avventure azzurre, andrà ad un grande appuntamento con un allenatore già esautorato, già fuori. Ora, possiamo dire che anche se ha vinto il triplete da allenatore esautorato del Bayern Monaco, magari Guardiola lo farà lo stesso quest'anno, per noi è un po' un'altra cosa. Io non sono d'accordo, però forse sono uno dei pochi, perché in generale per noi potrebbe essere un'altra cosa. Un giocatore potrebbe pensare: vabbè, adesso l'allenatore fra poco cambia, io posso anche tirare la gamba indietro. Però ricordiamoci che stiamo parlando di un campionato europeo, e quindi se il giocatore tira la gamba indietro la brutta figura la fa lui per primo, ma soprattutto stiamo parlando di Antonio Conte, con cui un giocatore non tira la gamba indietro, perché Antonio Conte sa come farsi valere. Poi io magari sono di parte, perché un debole per Antonio Conte ce l'ho, però non vedo questo problema. Cioè, si sa che Conte va via alla fine dell'europeo, allora l'europeo andrà male. No, non ci credo, soprattutto perché in panchina c'è uno come lui che anche a livello psicologico sa allenare molto bene le squadre. Davvero, l'avete detto voi, cioè all'estero è prassi dire prima cosa succederà dopo. Ultimo caso, via Guardiola. Già si sa che arriverà Carlo Ancelotti. Anches ha vinto tutto, tanto che al Bayern Monaco qualcuno voleva inventare delle nuove competizioni per fargli vincere prima del ritiro, perché giocava e vinceva tutto. Io credo che è vero, la mentalità italiana è un po' diversa, però non è applicabile in questo caso ad Antonio Conte. Però noi abbiamo anche il precedente del 2006, cioè Lippi aveva spiegato che alla fine di quel mondiale avrebbe chiuso il rapporto con la nazionale, e quel mondiale è andato come ci ricordiamo tutti. Io credo che la chiave di tutto sia adesso fare chiarezza, cioè è arrivato il momento in cui dire apertamente da parte di Conte, da parte della federazione, ma credo che succederà nelle prossime settimane, che cosa accade il 1 luglio, che cosa accade il 7 luglio, il 20 giugno, noi speriamo il più tardi possibile, e cioè che Conte alla fine di questa avventura non sarà più il commissario tecnico. Credo anche che Tavecchio, come dice Alessandro, lo sappia in realtà da mesi, da un po'. Ma c'era la necessità di tenere insieme i pezzi almeno fino a novembre, sì, cioè almeno fino almeno fino alla qualificazione raggiunta. Adesso è il momento della chiarezza. Ale, salutiamo un attimo Pardo che è arrivato al volo, voglio sentire come anche va? La sua. Molto no, bene, no, stiamo parlando. Camerino, registrando un programma, chiedo veramente perdono a tutti, però vi voglio bene, sapere che siete sempre. Rivestiti, per favore. Dice alciato, esatto. Alciato mi ha visto nudo, che detto così potrebbe sembrare una frase, nel senso che abbiamo. Che schifo, non è vero. Ma no, nudo fortemente. Però abbiamo abitato insieme per 2 anni. Beh, sarà pure qualche prova in giro, sì, no? Sì. Quindi. Alciato era anche fossero esistite, sono state bruciate. Sono state bruciate, non sono sul cloud, sul famoso cloud. Veniva anche a dormire Nosotti, gli davamo delle maglie da calcio. Abbiamo una collezione di maglie da calcio, qui dormiva, che sto andando verso il divorzio dopo questa dichiarazione. Fermati. Beh, Nosotti non credo che sia pericoloso dal punto di vista sessuale, dici la tua su Conte che va al Chelsea e la nazionale ma che va chissà dove. Ma insomma non è una cosa che mi sorprende, nel senso che comunque la differenza di budget e di prestigio fra i top club mondiali e le nazionali non vale soltanto per l'Italia, vale anche per altre nazionali, è evidente. E quindi insomma pensare che un allenatore possa scegliere la nazionale italiana o quella francese o quella portoghese o quella spagnola rispetto al Real Madrid, al Chelsea, al Manchester United, al City o al Paris Saint Germain è una follia, o al Bayern è una follia. Quindi non mi sorprende, è chiaro che bisognerà trovare una scelta di grande livello. Io è l'unica cosa della quale insomma vorrei essere certo, ma non ho dubbi conoscendo Conte, è che il livello di concentrazione, di attenzione, di meticolosità, che è una delle caratteristiche fondamentali di questo grande allenatore, secondo me rimane inalterato. Cioè che non vada, ma Alessandro non vada, ha garantito su questo dubbi non neanche lui, non c'è motivo di averne. Allora siamo a posto, rivestiti Pardo, sono vestito, ero al trucco. Ciao Pier, ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo forse dopo. Vediamo. No, io più talk che l'altro. Ok, ti aspetto se vuoi. Un'ultima cosa per Alessandro Acciato: certo che Conte va a ficcarsi in un bel nido di vipere nella Premier League dell'anno prossimo. Sarà fuori dall'Europa. E si troverà contro il City di Guardiola, lo United di Mourinho, tutti fortemente rinforzati. C'è la nuova onda del calcio britannico, abbiamo visto ieri il Tottenham giovanissimo prendere a pallonate la Fiorentina. Beh, insomma, non è una sfida facile, lasciami dire. È una bella sfida, però io non mi dimenticherei del fatto che va a sedersi alla famosa tavola del ristorante da 100 euro. Sì, sì. Ci fu il famoso discorso, perché io credo che abbia avuto delle garanzie totali da questo punto di vista, cioè sul fatto che Roman Abramovic possa spendere non ci sono dubbi. Credo che però in questo senso gliel'abbiano proprio detto chiaramente, che quindi abbia delle garanzie di poter tornare in Europa il prima possibile, e comunque già il fatto di poter sfidare Guardiola piuttosto che José Mourinho, secondo me gli ha acceso qualcosa. Eh beh, sì. Qualcosa all'interno. Ma voi facevate il discorso prima della chiarezza, secondo me è un discorso fondamentale quello. Perché non sono ancora usciti allo scoperto? Beh, intanto perché ufficialmente non è ancora arrivata quella firma sul contratto del Chelsea, ma è veramente un dettaglio, perché è una questione solo di tempi. Ma all'estero, non so, il Bayern Monaco dice il prossimo anno Guardiola non ci sarà più, ci sarà Ancelotti. Il City dice il prossimo anno Pellegrini non ci sarà più, arriverà Guardiola. E benissimo, quindi il prossimo anno Conte non ci sarà più, arriverà? Non ci sarà più, ma arriverà? Infatti c'è un grosso punto interrogativo, e credo che questo annuncio non arriverà proprio fino a quando non ci sarà il sostituto, oppure fino alla fine della stagione, perché se alla fine dovesse essere Mancini il sostituto, e vi assicuro che questo è il nome più importante al momento che gira all'interno della federazione, nasce un discorso analogo. Ok, l'Inter non avrà più Mancini alla fine della stagione, ma chi avrà? Lo vedo un po' più complicato, proprio per un gioco di incastri che non è ancora, non solo finito, ma non è ancora partito. Poi c'è una questione di opportunità, perché tu immaginati se a 2 mesi e mezzo alla fine di una stagione così importante Tavecchio dovesse annunciare che Mancini è il prossimo allenatore della nazionale. Sì, vi lascio immaginare. Prima. Esatto. Grazie Ale, grazie Alessandro, grazie a voi. Un abbraccio, grazie. Ciao. Alessandro Lanciato, ci fermiamo per la borsa, torniamo. 800240024 numero verde. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Dunque, il tema è chiaro, 800240024, Conte che firma con il Chelsea, lascia la nazionale dopo gli europei, ce lo diranno prima o poi, speriamo prima piuttosto che poi, Mancini principale candidato alla sostituzione di Conte. Ce ne sono altri, c'è chi scrive, in tutta questa giostra Ranieri e Capello, allora Capello, con Capello ho avuto modo di parlare a lungo di persona ieri sera, no, nella maniera più assoluta, Ranieri non lo so. Quali candidati ci sono, Giovanni, secondo te? Ma io credo che tutto ruota intorno a Mancini, perché poi il nome di Mancini interseca anche le parole tante che sono state spese in questi giorni intorno all'Inter e alla necessità di avere un piano A, un piano B, un piano C a seconda del piazzamento in questo campionato. Io immagino che difficilmente le strade di Mancini e le strade dell'Inter, al di là delle dichiarazioni ufficiali, possano continuare con un Inter che è costretta in parte, almeno numericamente, a ridimensionare restando fuori dalla Champions, ma per un reciproco interesse. Sì. E a quel punto, siccome l'Inter non può pensare di allungare il contratto che scade nel 2017 a Mancini senza offrirgli un progetto immediatamente vincente, Mancini, come ha detto pur tra le righe in queste settimane, potrebbe essere interessato ad esempio a tentare per due anni l'avventura e vedere se riesce a portare l'Italia al mondiale del 2018. Quindi, cosa tutt'altro che scontata, non sarebbe il caso di, a questo punto, di farlo subito. Conte firma con il Chelsea e si fa chiarezza da quel punto di vista lì. Mancini divorzia dall'Inter, come ma ha sai, fatto di mezzo c'è che l'Inter si sta giocando un campionato con il terzo posto. Io credo ci sia anche delle questioni di opportunità da rispettare. Tra poco apriamo anche un lungo capitolo Inter tra la questione societaria, tuo dire, e questo viaggio verso Juventus-Inter, e curiosamente le due questioni sono molto vicine, più vicine di quanto si possa pensare. Andrea Asti, buongiorno. Sì, buongiorno, sono arrivato giusto in tema, più o meno. Sì. Due domande veloci, la prima è, avete intanto incensato Mancini all'inizio sul fatto che cambiava 300 formazioni e vinceva sempre, in realtà insomma è un po' tutto il contrario. Potrebbe diventare l'allenatore della nazionale? Punto di domanda. Sì, la risposta l'ultima, sì. L'ultima domanda velocissimo, purtroppo non c'è Pardo, era una curiosità. Le telecronache gli dicono che partita fare o non fare, o è lui che decide quale partita fare? No, glielo dicono. C'è un tabellone, c'è un programma e dicono: guarda, Piccinini va a fare quella partita, tu vai a fare quell'altra, e si decide con largo anticipo. Non è che tirano i bussolotti in sala mensa, Andrea. Questo lo escludo. Roberto, provincia di Parma. Grazie di avermi convocato. Grazie. Volevo parlare del Napoli. A voi, a oggi, non vi sembra leggermente negativa la stagione del Napoli? Io avrei fatto il contrario, perché non faceva schifo vincere un'Europa League e una Coppa Italia e avrei giocato coi titolarissimi queste due competizioni, il campionato che è più difficile, poi se lo vince io mi tolgo il cappello, per carità, e non faceva schifo, dato che anche l'Europa League porta la Coppa dei Campioni quest'anno, e fare una doppietta Coppa Italia, Europa League, sì. Faceva vedere, allora, a livello internazionale. Roberto, se te lo garantiscono va bene, ok, se mi garantisci che finisce così, io posso, De Laurentiis, posso anche farci un pensierino, ma il Napoli si è trovato in testa alla classifica ed è ancora lì con pieno titolo e con pieno merito, dunque è chiaro che vale per Mancini, vale per il Napoli. Prima Mancini vinceva e adesso ti rinfacciano, dicevate che era bravo a vincere anche 1-0 eccetera. Adesso il Napoli sta attraversando un momento di difficoltà, ma non era meglio che altro le prime ore? Poi come si Europa fa a dire che la stagione del Napoli fin qui è parzialmente negativa? La stagione del Napoli fin qui lo trovo davvero clamoroso. Cioè, il Napoli gioca lunedì sera una partita decisiva per capire se davvero può inseguire il sogno dello scudetto. Ieri è andata male. Il Napoli alla fine esce per un cross che è finito in porta. Sì, perché anche questo se è giustamente il tema. De Laurentiis dice: non voglio sentire parlare di sfortuna. No, però sui 180 minuti il Villarreal non è che ruba nulla, perché la verità è che questo è un Napoli che in 5 partite ha fatto 3 gol ed è una squadra che in tutta la stagione ne ha fatti 80, quindi qualcosa non deve funzionare. Poi mi pare che De Laurentiis sia un po' rapido nello scaricare le colpe su altri. Ripeto, io ragionerei di più ad esempio sulle parole, visto che De Laurentiis parla tanto, sulle parole fatte ad inizio gennaio descrivendo quello che avrebbe dovuto essere il mercato del Napoli. Ti ricordi il campione, sì, magari due, l'investimento, se i napoletani vengono al cinema a vedere meglio il film di Natale, meglio stare zitti, eh. Allora faremo l'investimento. Mi sembra un po' ingeneroso tutto questo. No, a me sembra che certe volte sia meglio stare zitti. Invece è un piacere far parlare e sentir parlare un grande amico di questa radio, è mio, Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Buongiorno, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti. Ciao, come stai? Come... Bene, bene, molto bene. Un po' indaffarato in questi giorni per, sì, per le prove. Esatto, perché sei in partenza verso Olimpia, no? Esattamente, sì, stiamo per debuttare con il nostro secondo spettacolo dopo questa meravigliosa avventura con il pallavolista volante, che era nato così per caso per un'unica replica e poi siamo arrivati a 100 repliche in 100 città diverse, quindi un successo davvero inaspettato. E stiamo ripartendo adesso nell'anno olimpico per un viaggio nel tempo e andremo a Olimpia. Perché? Cioè? Perché è una storia che io pensavo di conoscere, le Olimpiadi antiche, proprio sai, quelle antiche, quelle della, sì, Grecia. Sì, in realtà, prima sorpresa mostruosa, sono durate 1200 anni, dal 770 avanti Cristo al 390 dopo Cristo, 293 edizioni, noi siamo arrivati alla 50esima, quello che è, e sembra tanto. In realtà nell'antichità è stato il più grande evento sportivo, ma non solo, la cosa bellissima era che anche nell'antica Grecia Olimpia era il momento nel quale tutti i grandi filosofi, gli sportivi, una folla di gente andava a Olimpia, che non era una città, era solo un luogo di culto, quindi figuratevi. Era un luogo dell'anima ed è rimasto, bravo, un luogo dell'anima, no? Esattamente. Immaginate il putiferio per 50.000 persone in quel periodo, senza ristoranti, senza alberghi, senza acqua perché faceva un caldo, cosa veniva fuori? Però era il luogo in cui bisognava andare. La Woodstock fosse... dell'antichità. Bravissimo, e questo è il nome che alcuni scrittori hanno usato, la Woodstock, non bagnata in quel caso, ma veramente con una... E poi 5 giorni di gare, con cerimonie religiose importantissimi, con cose speciali, era il momento nel quale c'erano le più grandi feste religiose, i più grandi eventi sportivi e anche le feste più meravigliose, più scatenate nella storia dell'antichità. Quindi riproporrai la coppia con Beatrice Visibelli sul palco, che così ha ben funzionato, sì. Poi... Zorzi attore, che è una cosa che ha incuriosito tantissimo, è inutile nasconderlo, visto come è andata la prima volta. Poi c'erano i danzatori di Cataclò, c'era tutto questo che comincia? Beh, noi cominciamo mercoledì prossimo, debuttiamo qui a Firenze dal 2 al 6 di marzo al Teatro Rifredi. Per noi è un bel momento, devo dire, una storia, per quanto mi riguarda, tieni conto che avrò un nome d'arte, non sarò più come quel pallavolista Andrea Zorzi che racconta se stesso. Come ti chiami? Ma io diventerò Zorkos. Zorkos. Zorkos. E cosa fai? Va alla ricerca delle ragioni della vittoria e della sconfitta per noi, gruppo di fenomeni che ha vinto tutto o quasi tutto, per sapere quale sia il significato delle vittorie, scoprendo, sai che cosa? Dimmi. Che nell'antica Grecia solo il primo riceveva la corona, gli altri non contavano nulla. Certo. So che tu sei un appassionato di questo tema, sì, perché sì, l'argento, sì, il bronzo, dici sì, no, ok, va bene, ma alla fine tanto conta chi vince. Bene. Tu ti ricordi chi ha vinto, eh? Poi ci sono, è chiaro, argento e bronzo sono grandi risultati sportivi, però alla fine si ricorda il numero uno. No. Diciamo guarda, che questa è l'altra sorpresa di una storia, perché noi abbiamo, grazie a De Coubertin, fine 800, ormai pensato che la Grecia fosse il luogo in cui c'era l'amore per lo sport, la competizione però mediata. In realtà erano ipercompetitivi, contava solo chi vinceva, chi era secondo se ne andava di nascosto da Olimpia, tornava a casa insultato e pieno di vergogna. Quindi questa è la contraddizione, perché effettivamente i temi che sono poi riemersi con le Olimpiadi moderne hanno un po' tradito il fondamento vero di questa vecchia Olimpiade. Però ripeto, è un viaggio interessante perché oltre ad essere il momento nel quale nasce lo sport moderno, è il momento nel quale nasce anche la nostra civiltà, ed è per quello che nel nostro viaggio si incontrano grandi filosofi, da Platone ad Aristotele, si incontra Milone di Crotone, il più grande atleta della storia. Tra l'altro c'è una storia prossima, lo faccio io Milone di Crotone. Fai e, parla veneto. Ma sei di Crotone o di Crotone? E fai l'accento, impara l'accento di Crotone, ormai fai l'attore. Poi dimmi la verità. Guarda, dimmi la verità, a me puoi dirlo. Ti diverti di più adesso a fare l'attore che non a fare giornalista? È un po' diverso. Sì, allora l'emozione del Gian Valco del quinto emendamento, la facoltà di non rispondere. Un po' mi è colto in fallo perché guarda, l'emozione di stare super concentrato, imparare il copione, imparare come muoversi. In questo caso c'è anche una sfida, diciamo così, coreografica, perché siamo insieme con dei ballerini bravissimi ed è un testo per due voci e quattro corpi, quindi c'è molta roba da mettere insieme, è molto emozionante. A me piace moltissimo fare il giornalista, la differenza è che tocca corde un po' diverse. Quando sei qua per davvero devi stare super concentrato su mille cose, su una bella emozione. Vedi, quindi è la cosa che ti viene più facile, no? È come preparare la finale delle Olimpiadi. È un po' così. Ti dirò, guarda, un'altra cosa che mi ha colpito è, ci sono alcune analogie, la focalizzazione che è un grande qualità per uno sportivo è validissima anche a teatro, anche nel giornalismo per la verità, è valida in modo un po' diverso. La differenza principale è che se nello sport concentrarsi vuol dire quasi quasi ridurre l'ampio lo sguardo per concentrarsi su una sola cosa, a teatro devi aprire la testa, devi allargare, certo. Perché non va bene se ti concentri troppo in chiusura. Questa è una differenza notevole, però è molto affascinante, veramente una bella esperienza. Grazie Andrea, in bocca al lupo, ci sentiamo presto. Ragazzi, in bocca al lupo, buon divertimento. Ciao. Andrea Zorzi. Allora, traffico, poi torniamo, 800240024, per chiarire di che cosa parleremo. Andremo da Dario Ricci a Zurigo, nostro inviato là, perché ci sono le elezioni del presidente della FIFA, già un candidato si è ritirato e in serata avremo il nome del presidente. E poi apriremo una bella pagina sull'Inter con Giovanni Capuano, che è amico personale di Togliere e sa tutto quello che sta succedendo, per andare a camminare attraverso questa vicenda e arrivare a uno Juventus-Inter di domenica sera, che è carica di un sacco di significati. Avremo anche le voci di Spalletti, che è tornato sull'argomento Totti, sentiremo Mihajlovic. Beh, non vi resta che aspettarci un attimo, il tempo del traffico. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Tutti convocati. Cascata la linea, cosa che succedono? La buona notizia è che non c'è traffico. Non c'è traffico, no? Diciamo a tutti serenamente di correre. Sereni e tranquilli. Dunque, da dove ripartiamo? Ripartiamo dal collegamento con Dario Ricci, che sta arrivando, che è a Zurigo. Chi è che vince secondo te? Credo sia chiaro che, non avremo un presidente né europeo né sudamericano per penso la prima volta nella storia della FIFA. E quindi insomma questo è già un dato interessante. L'altro dato interessante, normativa per Infantino, ma sì anche Tavecchio facendo arrabbiare Malagò, vincerà prenderà l'argento. Infatti, prenderà l'argento, che non serve a niente. No, l'altro dato interessante è che chiunque sia eletto al massimo farà 3 mandati, quindi dimentichiamoci la dittatura di Blatter e di Avalanche, perché questa mattina nelle pieghe di mille cose hanno anche votato questo limite di 3 mandati per il presidente della FIFA, quindi 12 anni e poi Che non sono, proprio no, niente. Però per Giovanni, i tempi della FIFA già si tratta di una rivoluzione epocale. Io farei un mandato solo e poi vediamo. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno dalla Halle Stadion di Zurigo, il sobrio salotto che la FIFA ha scelto per questo congresso, cari. Sì, quindi niente luci, almeno pubblicamente, lustrini, grandi spettacoli, grandi cerimonie. Per i baccanali e l'entrenese rimandato tutto a dopo. No, anche niente poliziotti, che rispetto poliziotti, l'ultima volta che si è andati lì a votare. Ma fanno sempre in tempo ad arrivare quando calano, come diceva Nick Carter, le prime luci della sera. Che succede? Allora, sentirete in sottofondo la chiama, perché siamo proprio al primo voto. La mattinata, come sintetizzava bene Giovanni, ha visto sul tavolo le riforme votate a larga maggioranza, anche se con uno zoccolo duro di 22 no e 6 astenuti. Non si capisce se questi contrari volevano di più oppure sono contrari anche a queste minime riforme, perché poi niente di epocale, come sottolineavi giustamente Carlo. E poi si è proceduto con i discorsi dei 5 candidati, che tra l'altro già sono diventati 4, perché il più simpatico, tanto più sessuale, il sudafricano che è stato compagno di prigionia di Mandela e che a Robben Island ha giocato anche a calcio nella Macana Football League, si è ritirato dopo un discorso che insomma ha acceso anche il sorriso qui in platea, perché un po' ha ravvivato gli animi di un congresso altrimenti abbastanza spento nelle dichiarazioni di intento. Adesso si sta votando, in campo sono rimasti il principe Bin al-Hussein, Al-Khalifa, che insieme a Infantino è il grande favorito, dovrebbero essere loro due a giocarsi testa a testa allo scranno della FIFA, e poi Jérôme Champagne, il francese, che onestamente dovrebbe uscire di scena alla fine di questo di questa prima votazione. Leggo sui programmi, e Infantino mi fa un po' paura. Dovesse vincere il mondiale a 40 squadre, a me mette un po' i brividi. Sì, anche a 50, perché no? Ma dai, su, fate i bravi. Il mondiale a 40 squadre, cioè si comincia a Pasqua e si finisce a Natale. Tanto paga, pantalone, pagano tutto il club. Programma mondiale a 40 squadre, 5 milioni di dollari a ogni federazione ogni 4 anni, 40 milioni a ogni confederazione. Questo in estrema sintesi leggo il programma, mentre Al-Khalifa, che vincerà, ha un programma diverso: riorganizzazione della FIFA in una parte sportiva e una finanziaria commerciale, ruolo meno esecutivo per il presidente. Detto così in due parole mi sembra tutto abbastanza fumoso, ma capiremo, Dario. Eh sì, direi di sì, perché questi strumenti di queste riforme sono di minima, no? Il limite dei mandati, come giustamente ricordava Giovanni, non solo al presidente ma anche ai membri del consiglio e al segretario generale, che è poi figura centrale, no? È quello che ha le mani in pasta in parecchi capitoli, e poi maggior spazio alle donne, sì, un numero minimo di 6 sui 37 membri del nuovo consiglio, insomma. Parliamo proprio di un lievissimo maquillage. D'altra parte, rivoltare come un calzino questo pachiderma non è certo facilissimo, no? Soprattutto considerando il punto da cui si parte. Infatti mi strappo un sorriso, credo, raccontandovi la gaffe della mattinata, no? Perché si stava testando proprio verso le 9:30 il sistema di voto, e allora per provare se funzionavano questi pulsantini, la domanda scelta era, e doveva essere facile la risposta: si terrà in Russia la prossima edizione della Coppa del Mondo nel 2018? Ecco, tutti a ridere. Hanno un senso del ridicolo notevole. Si divertono con poco. Hanno un senso del ridicolo. Tutti a ridere notevole. Perché proprio considerando che la magistratura svizzera ha individuato circa 150 movimenti bancari sospetti in coincidenza con l'assegnazione dei mondiali di Russia e Qatar, è tutt'altro che sicuro, insomma. Che ma sì, ma tanto facciamoli a 40 già dalla Russia, se saranno in Russia. Direi di sì. Se no traslochiamo direttamente in Qatar, e se non in Qatar lo deciderà Al-Khalifa nel momento in cui verrà eletto. Dario, grazie, ci sentiamo più tardi nel corso della giornata. Grazie a voi. Ciao Dario Ricci, divertiti con lor signori. Allora, qui la dietrologia è senza limiti. Allora, tu sai come è iniziata la crisi del Napoli? Perché è iniziata la crisi del Napoli? È una domanda simile a quella della Russia. La crisi del Napoli è iniziata con un fatto ben preciso: l'incendio dello yacht di Ferlaino, perché a bordo si trovavano tutti gli appunti da quando Sarri ha iniziato ad allenare. No, non lo sapevo. Non la sapevi, nemmeno io, però adesso la sappiamo perché un ascoltatore la scrive via SMS. Sai invece cosa è successo ieri prima di Lazio Galatasaray? È interessante, perché è la terza volta, ho letto, che si sono menati prima di lasciare il ritiro e salire sul pullman. Sono corcati dei botte, come dicono a Roma. In sei, non fai nomi, io credo che nelle prossime ore verranno fuori, anzi se qualcuno vuole scriverci, noi siamo qui e aspettiamo delle azioni. Siamo anzi interessati a capire chi si è menato tra Formello e lo Stadio Olimpico. Ma tu sai che ci sono dei clan, prima, no? Di Lazio Galatasaray. Ci sono ormai dei clan all'interno di quello spogliatoio che pare tutt'altro che unito. C'è stato Tare che ha preso per il collo Candreva una prima volta, poi Candreva sempre al centro di un altro episodio ripreso da Close una seconda. Ieri ci sono stati, c'è stato un regolamento di conti tra i vari clan dello spogliatoio sotto gli occhi di Pioli, che diceva: oh, vabbè, ma dai, lasciamoli fare, sono ragazzi. Ma magari anche contento, perché visto come poi ha reagito ieri la squadra, insomma, è andata bene. Hai visto mai che funziona? Non citiamo la Lazio del 1977, perché non ne possiamo più. Però non è che devono sempre andare d'accordo. No. Però noi sappiamo bene come, invece, non so se la crisi del Napoli sia iniziata con l'incendio delle notti di Ferlaino, dove c'erano gli appunti di Sarri, però sappiamo che... O col capitone di Higuaín, no? Sì, che ha messo su un chilo e mezzo. Un chilo e mezzo. Però sappiamo che l'Inter, da quel dopo... guarda caso, Inter-Lazio, e dalla baruffa negli spogliatoi qualche problema ce l'ha avuto. Andrea Mantova. Sì, ciao, grazie per avermi convocato. Grazie a te. Io volevo sottoporre due nomi per la nazionale, due nomi. Il primo è Di Francesco, perché è un allenatore sì. giovane e fa giocare bene le sue squadre. E un altro nome... Bravissimo, ma con pressoché nulla esperienza internazionale, possiamo dire. Però secondo me bisogna premiare un allenatore giovane con idee giovani che fa giocare i giovani. Poi se restiamo a casa dal mondiale fa niente, eh? È un dettaglio quello. No, però attenzione. Con la squadra che ha sta giocando no, bene. Quindi... Però attenzione, perché noi non ci possiamo permettere di prendere uno che deve fare esperienza, perché l'europeo finisce a luglio, se tutto va bene. Poi inizia quelle a settembre abbiamo le prime due partite di un girone in cui passa solo la prima direttamente e abbiamo Spagna e sappiamo già che siamo, diciamo, sfavoriti rispetto alla Spagna. Ma io non sottovaluterei nemmeno l'Albania, soprattutto il Montenegro anche. Quindi è un girone complicato nel quale non possiamo non fare scherzare. Passi falsi. L'altro nome però qual è? L'altro nome è un Juric. Che Juric, sta allenando il cioè uno straniero. Sì. È uno straniero. Ma storicamente l'Italia non ha mai scelto allenatori stranieri. Potrebbe essere il momento? Io credo di no. Io nemmeno, ma comunque non sono nomi... Soprattutto quello di Francesco, che possono avere un fondamento. Mi sembra che valga il discorso di Capuano, che dice non possiamo rischiare, qui è meglio andare su un altro, forse su un altro profilo. Giorgio da Brescia, ce la facciamo in 20 secondi? Sì, velocissimo, grazie della convocazione, un onore. Parlando di Inter, volevo solo dire, nel senso, per me Mancini può anche andare. E come allenatore vedrei magari meglio, non un allenatore, ma un motivatore, uno che... è voluto dalla curva stessa, nel senso tipo Zenga. Uno come il Conte della Juve. Quindi torniamo a Zenga. Va bene, anche questo è un altro tema, tanto di Inter cominceremo a parlare subito dopo il giornale radio. Da Toir fino alla partita di domenica sera, aspettateci. Saluti! Tutti convocati. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Well, it's a rumor, it's not from me. We're not selling, right? People say we are selling, I don't know from where. Do I appoint Goldman? Yes, because from 264 million fans, 190 million in Asia Pacific, I have to be there. That's the future market for us. We have to be there, which is we open a first Asia office. We already have 5 deals. Academy, television, it's good to be there. It's good to be there. Inglese è facile da comprendere, quello di Toir. Non vendo, non capisco da dove escono queste voci. Goldman Sachs l'abbiamo contattata? Sì, l'abbiamo contattata. Ci interessa il mercato asiatico? Sì. Dobbiamo essere là. Allora, Giovanni. Ma io credo che intorno all'Inter, insomma, tutto il caos che si è sollevato in questi giorni abbia aiutato a mettere dei punti fermi su alcune questioni. La prima è che al di là delle parole Toir è aperto a qualsiasi soluzione, perché il partner che sta cercando poi ieri l'ha declinato in vari modi, partner commerciale, sponsor, a un certo punto è anche uscita la parola socio, addirittura ha fatto il parallelo tra quello che sta facendo lui oggi con Goldman Sachs e quello che fece Moratti nel 2013 quando Toir si fece avanti per prendere l'Inter. E quindi di questo anche eventualmente stiamo parlando. Sì. La seconda cosa, che Moratti non intende derogare alla sua linea, che è quella di non mettere più un euro nell'Inter. Cioè, sì. Ieri Toir, a un certo punto l'ha detto. Ha detto: guardate, io ho già messo 200 milioni di euro in due anni, se serve ne metterò altri. Li presta è anche l'unico modo che ha per farlo senza dover andare contro Moratti, che, ripeto, per accordi e per statuto può dire no. Ma ieri l'ha detto finalmente Toir con chiarezza, cioè bisogna leggerle le cose che ha detto Toir. Può anche dire che non partecipa più ad aumenti di capitale, quindi non è che a Toir restino mille modi per ricapitalizzare l'Inter. La terza cosa è che la mancata qualificazione alla Champions League mi pare per la prima volta sia uno scenario concreto, cioè su cui l'Inter sta ragionando. Parla di piano A, di piano B, un piano B che ieri è stato detto è almeno numericamente a livello di rosa di ridimensionamento. E secondo me l'altra cosa su cui finalmente è stata fatta chiarezza è cioè la consapevolezza che non sarà né semplice né scontato stare dentro nei parametri sottoscritti, sì, con l'UEFA. Sì, la sensazione che resta è quella che Moratti e Tohir non vadano esattamente tutte le sere a prendere l'aperitivo insieme. No, e che questa cosa insomma Tohir l'abbia anche fatta capire tra le righe. Ripeto, quando lui dice se servirà mettere altri soldi li metto io, come ho fatto negli ultimi due anni, sì, ci ho messo 200 milioni di euro. E poi tra l'altro dice non paragonatemi con Moratti, perché lui ne ha messi molto di più, però stiamo parlando del periodo fino al 2014, perché da qui, da lì a oggi, e io credo fino a metà novembre, quando si scioglie il famoso patto parasociale di tre anni, Moratti quei soldi ha smesso di metterli, si dice la verità, cioè questa è la situazione oggi dell'Inter. D'altra parte Tohir ha rilevato l'Inter che era ed è una società piena di debiti, ma non ha pagato Moratti fino ad ora nemmeno un centesimo. No, ci ha messo 75 milioni di euro, sì, il primo aumento di capitale. I 200 milioni su cui fa conto Tohir sono la somma dei 75 milioni messi nel momento in cui ha rilevato l'Inter e dei famosi 104 di prestito fatti in varie tranche, che ora sono diventati 108, ma sono sempre lì. Cioè, Tohir non ha mai chiesto indietro né gli interessi né quei soldi, e tra l'altro in questi giorni ha anche fatto capire di essere pronto poi a lasciarli dentro. Quindi la somma fa 200, altri dovranno uscire nei prossimi mesi perché l'Inter ne ha assoluto bisogno, come tanti altri club, a partire dal Milan c'è bisogno di una ricapitalizzazione. Io credo che un po' di chiarezza sia stata fatta. Poi secondo me lo scenario è che fino a novembre non si muove foglia, cioè finché non si arriva allo scoglio di metà novembre dove si dovrà dire con chiarezza cosa fa Moratti, se sta dentro, se esce. Ma si sta dentro non su questi presupposti, questo però, è evidente, e quindi di conseguenza cosa farà Tohir? A me risulta che Moratti non aspetti altro, insomma, che quella data per uscire dall'Inter, però è per anche vero. Ha dato il dire, ok, adesso ti compri non hai più diritto di opzione, sono io che decido di vendertele e posso farlo per accordo e sono 100. Però ci sono due temi. Intanto che quella cifra, poco meno di 100 milioni, è fuori dal mercato, assolutamente oggi il 30%, il 29,5% dell'Inter non vale quella cifra. La seconda cosa è che Tohir tutte le volte che parla dice che non ha nessuna intenzione di arrivare alle quote di Moratti. Però deve farlo, cioè ha intenzione così o pare, non ha intenzione. Così però pare, però attorno a questa cosa io credo sia la chiave di spiegazione più importante di tutto il caos che c'è intorno all'Inter. Poi ci sono altre domande che sarebbe bello farsi, magari ce le facciamo domenica se vuoi, ecco, con un ospite importante. Bravo. Allora domenica alle 17:30, così diamo appuntamento agli amici interisti con un ospite importante, un ospite che conosce benissimo Massimo Moratti, ma che conosce benissimo anche gli ambienti finanziari e che soprattutto ha un'idea chiarissima di che cosa sta succedendo nell'Inter. Allora noi proviamo a rispondere a alcune di queste domande. La domanda più importante secondo me, sai qual è? Ma oggi Moratti fa il bene o fa il male dell'Inter? Perché questo è un tema che divide gli interisti. Certo. 800 24 00 24 è il numero verde. Ovviamente lo yacht non era di Ferlaino, era di De Laurentiis, ma che ne so io. No, di e la Lazio yacht era del bruciato, 74 Lazio e non del 74, 77. Ma che ne sappiamo di yacht bruciato? Abbiamo emendato tutti gli errori. Non ho neanche mai visto uno. Era talmente una strunzata quella del i guai del Napoli sono cominciati quando è andato fuoco lo yacht dove c'erano gli appunti di Sarri. Che perdonatemi, io continuo a pensare fosse di Ferlaino, ma perché mi gira così. Giuliano, Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo soltanto intervenire sul fatto che praticamente pensavo che sia stato opportuno oggi, che sarebbe stato opportuno oggi poter parlare anche di quelle tre partite di Europa League di ieri. Facciamolo, che vogliamo dire? Oggi la Lazio, visto che praticamente dalle 14 che parliamo di Conte, dell'Inter, della Juve, Higuain che c'ha un chilo e mezzo di più, che sì, okay. io penso che con tutto il rispetto per la nostra delusione per quanto è andato, per come è andata ieri per il calcio italiano, con tutta la nostra soddisfazione per la Lazio, la notizia secondo cui Conte ha firmato praticamente per il Chelsea, lascerà la nazionale e andrà via dopo gli europei, sia almeno a me affascini un po' di più rispetto ad un sedicesimo di finale di Europa League, con tutto il rispetto che ho per il ranking UEFA, per la Lazio, per il Napoli, per Ferlaino, cui non è andato fuoco lo yacht perché era di De Laurentiis e tutto quanto. Se volete facciamo un'analisi tattica delle partite, ma magari ci divertiamo meno. Invece mi diverto molto con Michele Dalai, che saluto, ringrazio, finalmente ci risentiamo. Ciao Michi. Eccomi Carlo, volevi Ciao. Parlarmi del mio chilo e mezzo di sovrappeso. Esatto, no, come hai fatto a sapere? Come Higuain, perché hai cessato, anche tu hai cessato la dieta dai frutti di mare, sì. Così i tifosi della Lazio si incazzano ancora di più, ma stai parlando del chilo e mezzo di più di Michele. No, senti, è cosa grossa. Senti Michele, invece con Giovanni stavamo tracciando questi scenari futuri, no? Intorno all'Inter. Sì. Ti faccio direttamente la domanda che poi domenica faremo agli ascoltatori, anzi fagliela tu Capuano. Moratti oggi rappresenta il bene o il male dell'Inter? Cioè è un valore aggiunto positivo o è un limite? Ed è magari anche una buona parte della spiegazione del casino di questa settimana. Grazie Giovanni, una domanda. Allora, no, è una, diciamo che intorno a questo tema ruota la nevrosi dell'Inter non da quest'anno, non dall'anno scorso, ma da ventina d'anni a questa parte. Moratti è il bene dell'Inter perché ha investito emotivamente, ha investito soprattutto a livello puramente economico tantissimo in questa squadra. È un limite, come tutti gli innamorati, perché spessissimo ha peccato di scarsa lucidità. E sai, è sempre difficile da tifoso poi valutare nel lungo l'operato di questi che sono dei mecenati. Alla fine ha giocato con l'Inter come una cosa propria, quindi non posso che essergli grato di avermi portato a però mi pare che in questo momento sia molto lucido, non ragioni tanto da innamorato. Qualunque scenario vogliamo prendere per buono, cioè sia che voglia rientrare facendosi restituire l'Inter a prezzo di saldo, sia che abbia deciso di uscirne, che ripeto è quello che risulta a me, cercando di farsi liquidare il più possibile da Tohir, di sicuro da 2 anni e mezzo a questa parte è molto lucido e attento. Allora la seconda versione, che è quella che anche a me sembra più probabile, in realtà nasconde un mezzo disastro di nuovo. Cioè, se è così, l'Inter da cui lui tenta di uscire in corsa in questo momento è un Inter che ha perso valore, che dal punto di vista della valutazione è crollata negli ultimi 2 anni. Cioè, l'intervento di Tohir, Moratti sperava probabilmente di riuscire a uscirne con la sua quota almeno integra dal punto di vista del valore, e se così fosse invece sarebbe un disastro uscire in questo momento. Riprendersela non lo so, la vedo veramente difficile. Certo, riprenderebbe in mano una società ripulita da alcune delle sue pecche, che erano quelle di essere molto generosa nei confronti di chi ci lavorava, di avere una struttura sovradimensionata, eccetera eccetera eccetera. Parlare di Moratti è sempre difficile da interista, c'è un lato emotivo e ce n'è uno che invece è più razionale. Io spero che l'Inter trovi un equilibrio che sembrava stesse trovando, ma probabilmente si partiva e si parte da un livello veramente complicato. C'è una società gravemente indebitata e che aveva una grandissima confusione interna. Poi è chiaro, se il sogno è quello di ritrovare una persona che è in grado, con uno sforzo personale, di portarti di nuovo di Ronaldo di questa epoca. Ma sai, quelli lì Michi non li trovi più, cioè, trovi lo sceicco, o trovi lo sceicco che è a fondo perduto, arriva lì e che è il nuovo mecenate, ma lo fa per gioco, non lo fa per amore. Come il Malaga, oppure però puoi finire anche come il City o come Con i cinesi, però, perché noi sono 2 giorni che ci misuriamo su queste ipotesi cinesi per l'Inter, però attenzione. Perché a me non viene in mente il nome di una grande realtà cinese che abbia investito su un club come hanno fatto gli sceicchi o i russi negli ultimi anni. Però hanno intenzione di farlo. Fin qui hanno comprato delle quote di minoranza dell'Atletico Madrid. Per via governativa. Quindi è caccia all'oro cinese, ma dappertutto, sì. non solo a Milano. Poi proseguendo nel giro di lì, a un certo punto magari torniamo anche in Italia, nel senso che poi facendo tutto il giro da quel lato passiamo da Indonesia a Cina, si passa agli americani e poi torneremo a una proprietà italiana. Non lo so, è sicuramente un argomento delicatissimo, anche perché le fughe di notizie sono sempre un po' strumentali, no? E quindi non si capisce bene da che parte tirino. Quello che è evidente è una grande difficoltà in una qualche buona riorganizzazione interna, ma una grandissima difficoltà. Guarda, sai che Michele Dalai ci ha bruciato o anticipato un'altra domanda di domenica. Ecco, questo cioè, è oltre al peso. Perché dopo 2 anni e mezzo di tregua, io non dico di silenzi perché qualcosa si era letto sul Corriere della Sera, ma insomma nulla. Perché dopo 2 anni e mezzo di silenzi improvvisamente Toyer è finito nel mirino dei grandi giornali? Perché? Ma perché? Perché in realtà in questo momento si avvicina alla data fatidica del prossimo novembre e la tregua armata a resto, adesso a questo signore si chiede che cosa intende fare di una cosa che rappresenta per lui un investimento magari certo. pericoloso. Per altri è una questione esatto. di altra esatto. natura. E infatti Michele, questo si intreccia, si incrocia con un altro, guarda il segno del destino, con un'altra vicenda molto emotiva. Perché? Come sai, domenica sera sai cosa succede? C'è... Sì, lo so. Esatto. Cioè, so cosa si gioca, ma non so cosa... Sai cosa si gioca? E si gioca forse molto più di una partita di calcio, perché l'emotività dei tifosi juventini porta a dire guarda, abbiamo la possibilità non solo di allontanarli dal terzo posto, ma allontanandoli dal terzo posto di togliergli pure le mutande dal punto di vista economico, di fargli un danno clamoroso. Sì. Che è la merce di cambio, la moneta di cambio vissuta con grande intensità rispetto a quanto è successo, quei passaggi del 2006. Ma io credo che da un certo punto di vista si sia un po' maturati allontanandosi da quell'epoca. Dall'altro effettivamente l'Inter in questo momento, perché siamo capacissimi di essere masochisti fino alle estreme conseguenze, rappresenti dopo qualche mese di pace, nuovo un piccolo obiettivo per lo scherno quotidiano, no? Quindi effettivamente al di là di quello che succederà domenica, che sicuramente non è determinante perché poi ne mancano ancora di partite, però insomma una spallata magari con certo. il campo Hernanes certo. stutacchiato da noi e su cui loro fanno una minusvalenza, noi una plusvalenza, chissà che cavolo di altro. Sarebbe bello, cioè, reciprocamente mi piacerebbe dirgli lo stesso. Ti piacerebbe lo stesso. Un'ultima cosa, Michele, sul nostro amico Guardiola. Sì. Ma mi spieghi cosa vuol dire che in fondo non è, il mio obiettivo non è vincere. Mercoledì ho vissuto martedì ho vissuto la serata più bella della mia carriera di allenatore, dopo essere stato rimontato da 0-2 con la qualificazione in saccoccia a 2-2. Ieri sera anche lui ho avuto modo di parlare con Cappello, che si è messo a ridere, ha fatto una faccia furba, mi ha detto ecco. vabbè, ha detto ha giochicchiato un po'. Sempre molto forte che sia quella che lui in questo momento stia facendo dei dispetti alla dirigenza del Bayern, non nel risultato sportivo ovviamente, ma questo continuo stentare la sua grande serenità, il fatto di non aver vinto quello che gli si chiedeva di vincere, ma di essere molto felice di se stesso, sta diventando un dispetto, cioè è proprio una dichiarazione programmatica, perché dopo una partita del genere non puoi dire quello che ha detto, non puoi essere serio, e Guardiola è una persona molto seria, sì. quindi credo che ci sia anche una componente che a noi sfugge, ma che è molto più tedesca. Sì, grazie Michele, continueremo a seguire con attenzione le vicende del signor Guardiola. Grazie Michele, da Lai, a presto. A voi, grazie, un ciao, abbraccio. Michi. Luigi Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, poi faccio sentire cosa ha detto, lo dico subito, cosa ha detto oggi Spalletti e anche quello che ha detto Mihajlovic. Dica. Sì, volevo sapere se il vostro giudizio di collocare il Napoli tra le prime 8 in Europa è ancora valido dopo l'ultimo turno europeo di Europa League. Di quale Napoli stiamo parlando? Prima o dopo l'incendio? No, adesso io non ho seguito la vostra trasmissione meglio. Prima. Ecco, però non so di cosa sto semplicemente giocando. E poi un'ultima cosa, non vedo per niente bene Mancini come allenatore della nazionale, non è capace di gestire i momenti critici e lo ha dimostrato con l'Inter, perde la testa troppo facilmente. Non so se sia un allenatore da nazionale, qualcuno ha sottolineato anche con qualche WhatsApp, però non è che può chiedere di comprare 10 giocatori a novembre no, al mercato di riparazione. Ed evidentemente non avrebbe nemmeno chissà quale scelta, ma nessuno sa se Mancini è l'allenatore giusto per la nazionale, semplicemente perché non l'ha mai fatto. Però insomma, tante critiche oggi mi sembrano ingiuste su Mancini. Adesso, uno che ha vinto come Mancini, perché ha vinto e non solo perché era al post Calciopoli, dire che non è capace di gestire le situazioni mi pare esagerato. Poi questo è il momento in cui non va bene niente, quindi va bene anche questo. Allora, vi faccio sentire come promesso cosa ha detto Spalletti alla vigilia della partita della Roma. È tornato sul tema Totti, inevitabile. Arrivadisco, io di questa situazione non ne voglio più parlare. Posso aggiungere che io questo lo rifarei con chiunque, come ho già detto dal primo giorno che sono venuto qua. Io non accetto che vengano anteposti i propri interessi a quelli che devono essere gli interessi della squadra, per cui lo rifarei con chiunque. Capito? Lo rifarei con chiunque, come dire, sono tutti uguali, cosa che invece non è la verità, cioè i giocatori non sono tutti uguali, almeno secondo me. Vi faccio sentire anche Mihajlovic. Ha dato sicuramente consapevolezza dei propri mezzi, che siamo una squadra che ha un'anima, un gioco, ha uno spirito giusto, una squadra difficile da battere. Domani dobbiamo cercare in ogni... giocando bene, giocando male, ma cercando sempre di giocare bene, di vincere la partita, perché prossime 3-4 partite si decide la nostra stagione, visto che altre nostre avversarie hanno scontri diretti e noi dobbiamo approfittare. Beh, insomma, Milan-Torino, qui un po' più banale la dichiarazione di Mihajlovic, chiamato comunque dal presidente a vincerle tutte. Adesso non c'è riuscito perché Napoli ha pareggiato. Sei Nazioni, Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Ed eccoci alla vigilia della partita da vincere a tutti i costi. La partita del cucchiaio, non è una novità. Sì, Spoon Game. Cosa succede con la Scozia? Succede che se domani piove, in teoria per noi è meglio, perché penso che possiamo contare soprattutto su una mischia che anche a livello di ricambi in panchina è di buon livello, in particolare con la prima linea. Vede che queste due squadre si giocano veramente molto, perché ti basti, Carlo, che la Scozia è reduce nelle Sei Nazioni, perché poi ha fatto un ottimo mondiale, da 9 sconfitte consecutive. L'ultima volta ha vinto in Italia 2 anni fa. Mentre l'Italia, che ha battuto la Scozia l'anno scorso, in casa non vince addirittura dal 2013 nel Sei Nazioni. Era stato l'anno che ci aveva illuso, perché avevamo battuto la Francia, l'Irlanda, e sembrava veramente che l'era Brunel si aprisse a un futuro significativo. Così non è stato, e ci troviamo sia l'Italia in crisi non solo di risultati, sia la Scozia in crisi soprattutto di risultati, tanto per cambiare, a giocarci una partita decisiva, così come, se non decisiva, molto importante sarà stasera Galles-Francia, che sicuramente vedrà quasi di sicuro, insomma, una delle due squadre finora imbattute incappare nella sconfitta, mentre l'altra può continuare a sperare e a opporsi alla candidata numero 3, che è l'Inghilterra. Sì, intanto domani Brunel saluterà l'Olimpico, ultima partita per lui da commissario tecnico, guarda caso, aveva fatto Sei Nazioni con un allenatore già sostituito, in questo caso conosciamo anche il nome del sostituto. Ci apprestiamo a fare la stessa cosa anche nel calcio, andiamo agli europei con Conte con la valigia. Comunque, fatto sta che Brunel domani saluta. Sì, ha già detto che pensava di ottenere di più, che si rammarica per quello che non è riuscito a fare in generale, come diciamo gestione del movimento dell'alto livello. C'è questo problema con gli allenatori che si sono succeduti, che effettivamente l'abbiamo già detto tante volte, Carlo. Dopo 2 anni più o meno tutti allargano le braccia e dicono più di così. E allora facciamogli i contratti di 2 anni, cosa vuoi che ti dica? Ah sì, facciamogli magari un annuale con opzione per il secondo anno. È anche vero che c'è sempre il discorso del ciclo dei mondiali di 4 anni è la cosa più logica in realtà, e la seguono anche tutte le altre nazioni. Ma però magari si potrebbe anche fare qualcosa di diverso. Intanto qualcosa di diverso si è fatto con queste 6 nazioni, perché abbiamo visto diverse facce giovani, e questa resta comunque la miglior notizia per il rugby italiano da un po' di tempo a questa parte. Ciao Giacomo, ci sentiamo domenica. Senz'altro, a domenica. Ciao. Ciao Giacomo Bagnasco, con il cui presente Giovanni Capuano. Che vi lascia con un quiz. Un altro quiz. Alle 17 diamo la risposta domenica. Chi ha detto? La cessione delle quote è determinante solo se fai il bene dell'Inter, altrimenti lasciamo stare, ma si fanno troppe chiacchiere perché nessuno ha mai parlato di quote di maggioranza. E io ne faccio un altro. Domenica alle 17. È lo yacht bruciato con sopra gli appunti di Sarri? Di nessuno. Non c'erano gli appunti di Sarri. Domenica non mancate, 17-19, poi dalle 5:30 approfondiremo appunto Focus con tutti voi sul tema Inter, ma bianco-nero, anzi nero o azzurro, azzurro chiaro, dovete prendere posizione, se no non vale. Giorgio De Luca, il nostro autore, Andrea Roccabella in regia, Federico Binda in redazione, ci sentiamo domenica. Signori, alla prossima!